Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano. Grazie per gli auguri, ma soprattutto grazie ai tifosi del Verona per gli auguri al sottoscritto. Un abbraccio grande, dai che quest'anno ci divertiamo, forza Verona! Solo che quest'anno è già finito per Antonio Cassano, adesso ve la raccontiamo perché è freschissima e alle 16 Cassano spiegherà perché dopo 8 giorni lascia Verona e da quello che si è capito lascia anche il calcio. Pare per motivi familiari. Sarebbe diventata infatti insostenibile per lui la nostalgia di casa, troppo lunga la distanza tra la Liguria e Verona. Ne parleremo anche dopo le 15 con Pierluigi Pardo, che di Cassano conosce anche gli intimi pensieri, ha sorpreso tanti. Abbiamo qui Franco Ordine, ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio a voi tutti. Cassano non riesce a fare una cosa normale. Beh, io devo dire che insomma, un po' mi sorprende, e un po' no, nel senso un po' mi sorprende perché ha appena cominciato la stagione, e un po' no perché chi conosce in qualche modo Antonio Cassano sa che l'imprevedibilità è la sua patente, è la sua bussola, e quindi non bisogna più stupirsi. Ne parliamo, Allora 800 24 00 24, chiamate, vi prenotate per intervenire, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi potete seguirci anche video sulle nostre pagine Facebook, quella di Radio 24 e quella di Tutti Convocati trattino Radio 24. Stiamo seguendo insieme a Franco Ordine la prima vera amichevole, per quanto possano essere vere le amichevoli, del Milan a Guangzhou. Sta per finire il primo tempo, Milan-Borussia Dortmund, risultato 2-1 per il Borussia Dortmund. Ve la racconto rapidamente, inizio con i tedeschi che andavano al doppio della velocità del Milan, gol di Sahin al 17esimo, sinistro dal limite con Storari, netto ritardo, raddoppio di Aubameyang, il sogno di mercato del Milan. Su calcio di rigore al 20esimo, fallo di Paletta su Pulisic, poi al 24esimo è arrivato il gol di Bacca, che gioca al centro dell'attacco, dai 25 metri una puntata di destro che ha sorpreso il portiere del Borussia Dortmund. Primi 45 minuti stagionali di Milan, diciamo rivedibili, ma ci sono in campo dei nuovi soltanto Rodriguez, Borini e Kessi. Siamo in fase ampiamente sperimentale, Franco. Sì, ma soprattutto in fase clamorosamente in ritardo dal punto di vista della condizione fisica. Io credo che facciano bene al Milan, all'idea del Milan futuro, e soprattutto al progetto e all'appuntamento del playoff di Europa League, un'eventuale sconfitta, un'eventuale batosta, insomma, per capire che aria tira da quelle parti, visto che mancava all'appello da troppo tempo in Europa. Sì, poi cerchiamo comunque di dare un senso anche a questi primi 45 minuti, seguiremo insieme la ripresa di questo Milan-Borussia Dortmund, perché magari qualche indicazione possiamo anche provare a coglierla. Io te ne do già una al volo, secondo me. Il pilastro di cemento armato è che sì, mi pare che abbia già preso in pugno la situazione, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista squisitamente tattico. Sì, lui è piantato lì in mezzo con José Mauri e Bonaventura questo pomeriggio, meglio questa serata cinese. Ha sbagliato qualcosa in uscita, però anche qui ci sono dei meccanismi che vanno sistemati. Adesso vediamo come Rodriguez, che dicono abbia questo sinistro vellutato sulla punizione. Sì, c'è un calcio di punizione, siamo nel secondo minuto di recupero, ecco il sinistro di Rodriguez, palla che si perde alta sulla traversa con Weidenfelder fermo, e quindi il primo tempo si chiuderà così. L'altra indicazione secondo me è proprio su Rodriguez, che sarà anche per la condizione, ma in questo primo tempo è stato abbastanza scherzato da Dembélé lì sulla fascia sinistra, però qui ha giocato quarto di sinistra, che ha giocato a 4. Io credo che l'indicazione sia proprio quella, questa è una squadra nata per giocare a 3, esattamente, più che nata lo è diventata con l'arrivo di Bonucci, nata cercando di costruire sul mercato questa squadra. Tempo. Finito il primo tempo, dunque 2-1 per il Borussia Dortmund. Se vogliamo dare un voto, ma proprio se vogliamo darlo a questo primo tempo del Milan a Guangzhou gli diamo un 5,5 di stima. La promozione non si può avere. Il Borussia è più avanti, inizia una settimana prima la Bundesliga. Nettamente più avanti. Però il Milan non si può permettere di essere indietro. Sì, beh, insomma, non si può permettere. Tieni conto che l'appuntamento che conta è tra più di 8 giorni, più di quasi 10 giorni, cioè il 27 in Romania e poi il 3 agosto il ritorno a San Siro. Insomma, quella è la prima deadline del Milan di quest'anno. Sì, di un avversario che oggettivamente non può preoccupare il Milan. Adesso parliamo molto del Milan oggi, parliamo anche dell'Inter, di tutte le altre che stanno facendo mercato. Dopo le 15 parliamo della nuova vita di Francesco Totti, diamo un'occhiata anche a tutto ciò che si muove fuori dai nostri confini. Vi raccontiamo la storia bellissima di Cristian Zaccardo, che sta cercando una squadra su LinkedIn, come facciamo un po' tutti noi quando dobbiamo trovare lavoro, ma abbiamo scoperto che non è il primo caso in Europa. C'è chi l'anno scorso ha fatto mercato rivolgendosi a LinkedIn e ha trovato un terzino, probabilmente neanche soddisfatto. 800 24 00 24, ci sono Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, Andrea Roccabella in regia. Mi fate sentire quella cosa di Bonucci, che ha postato su Instagram, che ha esaltato i tifosi del Milan e ha fatto arrabbiare molto i tifosi della Juve. I tifosi mi hanno chiesto se sarò in grado di spostare gli equilibri. Lavorerò per riuscirci, lottando con ancora più fame. Insomma, questo avrò ancora più fame che ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus, che continuano a vivere come un tradimento quello che è successo sul mercato. Sì, però mi sembra, io devo dire francamente che di questa roba dei tradimenti, dei tifosi, io comincio a essere un po' stufo, anche perché mi sembra ripetitivo, in qualche caso addirittura fuori luogo. Qui in questo caso dice: mi hanno chiesto se farò la differenza, avrò ancora più fame. È una promessa, non è nulla di sconvolgente, né nei confronti dei nuovi tifosi, né mancanza di rispetto nei confronti dei vecchi. Insomma, se la smettiamo di prendere e di trasformare in un nemico acerrimo un giocatore che cambia maglia, forse miglioriamo anche la qualità sociale dei nostri rapporti quotidiani. Io sono stuzzicato da questo parallelo, ho posto ieri questa domanda anche a Paolo Condò, cioè se Bonucci 2017 può rappresentare per il Milan quello che ha rappresentato Pirlo nell'estate per la Juventus nell'estate del 2011. Beh, questo credo che sia la speranza, oltre che la suggestione del Milan. Io penso, su una cosa sono convinto e sono sicuro: prima dell'arrivo di Bonucci continuavo a ripetere che mancava l'appello nel mercato del Milan, la presenza e la figura di un leader, di un capo carismatico di questo gruppo di nuovi arrivati da ogni parte dell'Italia, del campionato italiano e da ogni angolo europeo. Bonucci secondo me rappresenta, in qualche modo incarna, questa figura carismatica, e penso e sono sicuro che in qualche modo, evitando le esagerazioni e gli spigoli che ha avuto nella militanza juventina, riuscirà a farlo. Sì, poi c'è chi, io gli ridò i numeri, 800 24 00 24 per telefonare in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Noi accettiamo tutti, anche quelli che non capiscono cosa stiamo dicendo, tipo un amico che non si firma, che dice: non avete proprio niente da dire, vi inventate un paragone fra Pirlo e Bonucci. Ma noi non stiamo paragonando Pirlo e Bonucci, noi stiamo paragonando l'impatto che può avere, esatto, per far girare tutto il resto Bonucci, esatto, e che fu quello che ebbe Pirlo in quell'estate che portò poi allo scudetto della Juventus. E se fosse così, io credo sarebbe stato un clamoroso errore da parte della Juventus e curiosamente anche di Allegri, sempre, che allora fu accusato per quel regalo fatto alla Juventus, però, di far partire Pirlo. Per onestà intellettuale bisogna ripetere, riepilogare, riavvolgere il nastro e segnalare che in quella circostanza, oltre al giudizio di Allegri, che tra l'altro era in qualche modo ottenuto dal fatto che c'era stato Van Bommel, acquistato a gennaio, che era diventato uno dei protagonisti dello scudetto, poi del Milan. Ma poi ci fu anche la società che con l'idea di non dover garantire un altro stipendio da 6 milioni netti, che voleva dire 12 lordi per la società, decise di farlo partire, immaginando che il giudizio del popolare Allegri fosse non soltanto di natura economico-finanziaria, ma anche tecnica. Sì, anche questa volta la sensazione è che la scelta non sia solo di Allegri. Sia Pirlo che Bonucci, secondo me, avevano bisogno di entrambi di ricaricare le batterie e di ritrovare nuove motivazioni. Fuori da dove erano stati, c'è chi scrive: Bonucci è un buon giocatore, ma senza Chiellini e Barzagli a fianco farà sicuramente peggio, vedremo. È un leader a parole, in campo non lo è, vedremo anche questo. Milano e il Milan sono per lui una prova interessante. E poi ancora: Bonucci sposterà gli equilibri nello spogliatoio, non so se in positivo o in negativo, perché abbiamo capito che è una presenza comunque abbastanza ingombrante, e questo è quello che c'è parso di intuire in questo finale della sua storia con la Juventus. Noi parliamo anche del perché il Milan spende, l'Inter no. Se avete delle domande, c'è qui Franco Ordine a disposizione fino alle 15 per parlare di Milan e non solo. 800 24 00, e anche di fair play finanziario, che è la spiegazione tecnica del diverso comportamento dei due club di Milano. Quindi se avete domande siamo qui. 800 24 00 24. L'Inter sta partendo per la Cina proprio in questi minuti. Parte senza grandi colpi, senza grandi campioni arrivati dal mercato, e parte con Nagatomo, che per i tifosi dell'Inter in questo momento è il simbolo dell'immobilismo di Sabatini e d'Ausilio. Noi abbiamo il traffico, torniamo subito, c'è già Roberto da Milano, ripartiamo da lui. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo anche questa fortuna di essere in Cina una settimana, di essere a contatto con la proprietà per fare il punto bene della situazione, capire bene le risorse che evidentemente non sono illimitate, abbiamo già fatto una campagna molto importante, fare bene i conti, ragionare col mister, perché queste due amichevoli daranno anche delle indicazioni tecniche a lui e a Mirabelli, e poi quando rientreremo in Italia a partire dal 23-24, quando saremo di nuovo lì, prenderemo e imboccheremo la strada giusta. Stiamo tenendo aperte un po' di piste, tutte importanti, tutte belle. Credo anch'io che qualcosina faremo ancora. Eccoci qua, allora sono qui con Franco Ordine, che è venuto a trovarci per parlare di Milan e non solo. 800 24 00 24. Poi vi leggo un po' di messaggi che stanno arrivando. Roberto da Milano, Roberto. Sì, pronto. Vai. Ciao, io volevo fare una considerazione e chiedere il vostro parere con riferimento alla notizia di Cassano. Ho sentito prima il direttore dire imprevedibilità del comportamento, io parlerei anche di immaturità, che poi ha caratterizzato tutta la carriera di questo giocatore, che di opportunità ne ha avute tante ma non ha mai inciso, e questo, se vogliamo, è l'ennesima controprova. Io non stimo molto il calciatore, ma non lo stimo perché ho visto i risultati in tutte le squadre in cui è stato, da Roma, Madrid, Milano, Inter e via dicendo. Sì, però Roberto, io questa volta sinceramente faccio fatica a parlare di immaturità. Poi sentiremo dalla viva voce di Cassano le spiegazioni. Dobbiamo capire il motivo, perché ecco, dinanzi al motivo poi potremo emettere giudizi, sentenze e anche opinioni appuntite. Ma però, anche fosse la nostalgia di casa, che fa sorridere tanti, lo stanno scrivendo, in fondo ci ha messo una settimana, poi l'ha dichiarata, il Verona credo non abbia problemi, non è che si trova alla vigilia della stagione, dell'inizio della stagione. Però ragazzi, la nostalgia, io lo dico in anticipo, qui gioco in contropiede, la nostalgia della casa lo deve raccontare a Caracozza, che poi sapete chi è Caracozza, è l'ingenuo del paese. Allora, uno che è stato un anno e mezzo fermo avrebbe anche voglia di evadere dalla piccola prigione quotidiana. Ma magari lui sta benissimo a fare il papà, fare il marito. Qui c'è dell'altro. Allora, io penso, con rispetto, se è una questione di natura fisica, e penso con altrettanto rispetto se è una questione di natura psicologica, di tensione, di pressione, cioè non è più un calciatore, non è più un atleta, benissimo, di orari e di come dire, e di obblighi che non riesce più a rispettare, quello sì, e sarò rispettoso di questa scelta, ma la roba della nostalgia della famiglia, per piacere, che la racconti al signor Caracozza. Marco da Torino, Marco. Sì, ciao, grazie per la convocazione. Vai. Mi rifaccio un passo indietro su Bonucci. Io sono juventino, non vorrei che diventasse proprio una telenovela Bonucci al Milan. È andato via, siamo contenti di quello che ha fatto. Sono d'accordo con Franco sul discorso che ha fatto poc'anzi. Quindi va bene così, insomma. Si chiude appunto un'avventura di Bonucci alla Juve, va al Milan. Secondo me questo è anche a vantaggio della Juve, perché avrà molti più stimoli in campionato e forse questo permetterà di fare anche il passo in avanti confrontandosi con delle squadre un po' più forti in campionato. Sì. Quindi volevo solo appunto dire questo. Io non credo che però la Juve l'abbia fatto per questo, cioè per dire noi facciamo così, ci costruiamo noi delle squadre più forti in Serie A, il campionato è più allenato. La Juve ha fatto, intanto faccio i complimenti a questo nostro radioascoltatore, Marco, perché sì, intanto per l'educazione e direi soprattutto per l'equilibrio delle opinioni espresse, ma poi nessuno valuta quella che è la vera chiave di lettura dell'operazione. Qui la Juventus ha voluto ribadire in maniera solenne il primato della società rispetto alla volontà dei giocatori. Questo è, credo, un insegnamento che arriva dai tempi di Boniperti. Sì, però la differenza è che se lo fai con l'ultimo contratto di Del Piero, che è stato un altro esempio, non ti fai un danno tecnico, al massimo ambientale, per qualche mese. Se lo fai con Bonucci, un danno tecnico potenzialmente te lo sei fatto. Però è troppo facile mostrare i muscoli quando si tratta del nano, mostra i muscoli quando si tratta del gigante. Il gigante. Allora, intanto saluto Luca Antonini, ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo sapere se stai vedendo, se hai visto il primo tempo di questa stagione del Milan col Borussia. No, ancora no, non lo sto guardando. No. Senti, ti piace? Sta facendo? Sta perdendo 2-1, ma è un'amichevole estiva, quindi lo diciamo e lo ripeteremo da qui fino alle ore 15. E come tutte le amichevoli estive, soprattutto contro squadre di grande livello come il Borussia Dortmund, si porta tante incognite a partire dalla differenza di passo, di condizione atletica e di velocità che i tedeschi evidentemente in questo momento hanno e il Milan no. Volevo capire da te se ti piace tanto il Milan che sta nascendo o se vedi ancora qualcosa da sistemare. No, beh, sicuramente c'è da sistemare l'attaccante, che quello credo che sia, che l'abbiano lasciato per ultimo proprio perché è la cosa più importante. Però devo dire che il Milan ha rivoluzionato tutto e ha preso giocatori con esperienza, con grandi qualità, in ruoli in cui il Milan aveva bisogno. Ma perché nessuno si fida di André Silva, che in fondo è costato quasi 40 milioni? Io mi fido di André Silva perché so che è un grande giocatore, però c'è bisogno di un altro giocatore ancora più importante per giocare al suo fianco, perché il Milan cambia modulo, giocando 3-5-2 ha bisogno di due grandi attaccanti. Dici anche tu, Franco, che è così? Il problema fondamentale secondo me è che il ragazzo André Silva è un ragazzo, è alle prime armi e non gli si può mettere sulle spalle il macigno della responsabilità complessiva dell'attacco, quindi ha sicuramente bisogno almeno di un partner, almeno di un ricambio, perché non dimentichiamo che poi il Milan giocherà giovedì e domenica tra Europa League e campionato e quindi dovrà necessariamente avere almeno una serie di ricambi all'altezza della situazione. L'anno scorso, come hanno dimostrato gli infortuni di Bonaventura da una parte e di Abate dall'altra, i ricambi non hanno garantito lo stesso rendimento nel girone di ritorno, quindi insomma mi sembra un tentativo di guardare al futuro, ecco. Sì, resta che una squadra che deve rifondare spende 40 milioni per un attaccante, tecnicamente dovrebbe aver preso un titolare. Tecnicamente secondo me ha preso il titolare del futuro, però capisco che è una scommessa molto impegnativa economicamente. Io lo considero un prezzo spropositato rispetto al valore complessivo del giocatore, però trattasi di scommessa e quindi potrebbe essere anche che tra un paio d'anni se ne riparli, ecco, in maniera diciamo completamente diversa. Adesso ha garantito Ronaldo, ha garantito Ronaldo su Andrea Silva. Di queste garanzie un po' pelose mi fido pochissimo. Poi hanno lo stesso procuratore, appunto, ecco. Peggio ancora. Però mi lo chiedo a tutti e due, poi vi do il mio podio. Me li mettete in fila fra i tanti nomi che vengono fatti, quindi Belotti, Morata, Aubameyang, che abbiamo visto oggi segnare un gol su rigore al Milan, lo stesso Kalinic, anche se pare in fase di ricucitura con la Fiorentina, me li mettete in fila di utilità per il Milan, Luca e poi Franco? Ma allora, secondo me Kalinic poteva essere la soluzione giusta, perché è un giocatore che piace tanto a Montella e si sposa perfettamente con André Silva. Per quanto riguarda gli altri attaccanti, Morata non è una prima vera punta, e quindi è un po', diciamo, fa lo stesso gioco di André Silva, e forse Belotti è quello tra i nomi che sono usciti fuori in quest'ultimo periodo. Credo sia il giocatore perfetto per il Milan. Quindi tutti saresti preso Kalinic, ma Belotti va bene, che sembra fantascienza. Ritornare indietro di un paio di mesi. Io Kalinic l'avrei preso, perché comunque ha detto bene Franco, il Milan ha bisogno di giocatori per fare tutte e due le competizioni, campionato e Coppa UEFA, e la Coppa UEFA giocando il giovedì è veramente pesante, e quindi hai bisogno di giocatori forti in punti chiave, tanti giocatori forti in punti chiave, e l'attaccante è il punto chiave. Hai André Silva, prendi Kalinic, a quel punto vuoi prendere anche Belotti e li fai coesistere tutte e tre, perché avendo due competizioni e tre con la Coppa Italia hai bisogno di giocatori importanti per tutte e tre le competizioni. Franco. Allora, il mio podio è, allora, come calciatore, come giocatore, come cifra tecnica, come spessore, come esperienza internazionale, evidente al primo posto c'è Morata, anche se, come dice Luca Antonini, non ha la caratteristica secca del centravanti d'aria di rigore alla Bacca, tanto per capirci e per intenderci meglio. Subito dopo ci metto dentro Belotti, perché ha le caratteristiche che piacciono ai milanisti, è un tifoso da ragazzo del Milan, è giovane, è italiano, sarà il centravanti della nazionale, speriamo, al prossimo mondiale in Russia, e quindi ha, diciamo, tutte le caratteristiche per piacere. Aggiungo che invece Kalinic, che secondo me sarebbe il profilo più adatto nell'immediato, anche però per quanto costa, ma soprattutto però anche per l'età, voglio dire, Belotti c'ha 23 anni, insomma, rispetto ai 30 di Kalinic. Se tu vuoi una garanzia, ti vai a prendere Kalinic. Ho una domanda in 30 secondi per Luca Antonini: che effetto gli fa sentire che Cassano molla Verona? È quasi certamente il calcio. Tu ci hai giocato, no? Cosa vuol dire molla Verona è quasi certamente il calcio? Perché non la sapevo questa cosa. Ma è una cosa di mezz'ora fa. Significa che alle 16 spiegherà perché, ma lascia il Verona e quasi certamente annuncerà l'addio al calcio. Fonti vicino alla famiglia, che Franco Ordine disconosce, parlano di nostalgia per la lontananza, no, per non casa, disconosco la ma famiglia. Poi vedremo, ascolteremo la tesi, dubito, la spiegazione. Dubito che la nostalgia della famiglia, cioè un conto è se dice sai è andato in Cina, allora è andato in Cina, la famiglia ma è rimasta... Guarda che sulla A4 c'è traffico. Ascolta, è rimasta in Italia, ascolta, non vi fate sentire da quelli che vanno la mattina in miniera. È andato in Cina, la famiglia è rimasta in Liguria, gli è venuta la nostalgia. Lui sta a Verona, la famiglia sta a Genova, c'hanno le macchine, gli elicotteri, gli aerei. Dai, per piacere, ripeto ancora una volta, è una storiella bella che farà anche effetto, che magari convincerà qualcuno, ma da raccontare a Caracozza. Ma noi siamo qui pronti a bercela. Luca, tu che impressione ti fa? Ma io Antonio lo conosco, l'ho sentito anche poco tempo fa. Non sapevo di questa cosa, non lo sapevamo nemmeno noi fino a mezz'ora fa. Rimango un po' così, nel senso che pensavo fosse fosse la soluzione giusta, visto che aveva ritrovato Pazzini, è arrivato Cerci, una società che punta a fare un bel campionato in Serie A, comunque sta facendo dei buoni acquisti, e non lo so, non so cosa dire, nel senso che mi dispiace dovesse succedere una cosa del genere, perché quando l'ho sentito lui era motivato a continuare, motivato a mettersi in discussione non c'era niente che lasciasse immaginare un epilogo così, infatti, l'aveva inseguita quella maglia, quel ritorno. Esatto, vuol dire che qualcosa è successo in questi giorni, se alle 4 ci sarà questa sua... Ascolteremo e capiremo un po' quali saranno le motivazioni. Grazie Luca. Grazie a voi, ciao Franco. Ciao. Grazie Luca Antonini. Intanto ricominciato il secondo tempo, Borussia Dortmund Milan, ci sono Çalhanoğlu e Musacchio, quindi attenzione perché Montella ci fa vedere altri due volti nuovi. C'è come anche diceva, Roberto da Verona, pronto, proprio alla borsa, siamo in straritardo. Come diceva Maurizio Mosca, avessi detto ragazzi, è quello che ci offre oggi il menù calcistico, è già tanta roba, è tanta roba, ci torniamo subito. Ma perché tutti convocati? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Quest'estate il falco e il gabbiano non volano in vacanza. Rimaniamo con voi riproponendovi le puntate che voi ci avete chiesto di farvi riascoltare. La prima donna regista a vincere l'Oscar, Kathryn Bigelow. Il Falco e il Gabbiano vi aspetto oggi alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Tutti convocati. I nostri amici sono scatenati da casa, intanto nono minuto del secondo tempo, 2-1 sempre per il Borussia Dortmund sul Milan a Guangzhou. Siamo nella prima partita della ICC, sono entrati Çalhanoğlu e Musacchio, quindi a questo punto sono 5 i volti nuovi che Montella sta presentando in questo Milan, che sta facendo un po' meglio rispetto all'inizio del primo tempo. I nostri amici da casa sono perfidi. Allora, scrive via SMS 349-238-6666 Marco: anche Cofferati aveva nostalgia di Genova quando stava a Bologna, poi è finito a Bruxelles. E poi scrive un altro amico, Maurizio D'Aiesi, che ha calcolato che la distanza tra Verona e Genova è 287 km, 2 ore e 50 minuti. Bravo! Nostalgia di casa, chi ci crede? Io ci voglio credere. Sì, io ci voglio. Uno che ha fatto il papà e il marito per un anno e mezzo, ha voglia di tornare a farlo. Secondo me sono le gioie della paternità. Roberto da Verona, vai Roberto. Sì, grazie della convocazione. Dai. Niente, ovviamente io sono un tifoso dell'Hellas, per cui sono rimasto... Ma sei contento o no? Perché c'è anche chi ha scritto che il Verona fa 13. C'è anche chi ha scritto che il Verona fa 13 perdendo Cassano. Ma no, allora io l'ho visto nelle prime uscite, ragazzi, qui stiamo parlando tecnicamente di uno dei giocatori con più classe che abbia visto calcare i campi di calcio. Bravo. Mi fermo lì. Sì, ma è così. Però bisogna anche correre, magari. Ho capito, ma lui sta discutendo la cifra tecnica di Cassano, che è nettamente superiore. È di sicuro il giocatore di maggior pregio tecnico che sia mai arrivato al Verona, persino meglio del famoso Verona dello scudetto. C'è chi scrive che ha capito che i veronesi sono matti. Cesare da Bari, Cesare. Sì, buonasera. Vai. Buonasera a tutti, grazie per la convocazione. Una considerazione, vi ringrazio anche perché mi date la possibilità di confrontarmi col dottor Ordine su questa mia considerazione. Abbiamo convocato perfetto. Apposta. Prego. Come direbbero dalle nostre parti, MOC, andiamo avanti. Dottor Ordine che viene ringraziato da tutti i signori Caracozza d'Italia. Prego. Sì. No, allora io volevo fare una considerazione sul mercato dell'Inter, su quel mercato tanto vituperato, o su quei movimenti, o quel mancato mercato ad oggi dell'Inter, dicendo che tutto sommato io, che sono un tifoso interista, devo dire che sto apprezzando l'intelligenza, la tempistica e anche l'oculatezza con la quale La dirigenza della famiglia Zhang, secondo me, che tira le fila, sta muovendo appunto le sue pedine, nel senso che è stato dato in pasto a noi utenti, lettori, eccetera, noi tifosi, da noi tifosi, molta stampa, è stata data in pasto l'informazione che arrivava Zhang, arrivava Suning, e che si sarebbero fatti facilmente uccellare da chiunque, avrebbero comprato chiunque. Sì. Cosa che puntualmente è successa l'anno scorso, ma andiamo avanti. Che è successa l'anno scorso. Perché non c'era Sabatini l'anno scorso. Una volta scottati, hanno capito subito l'errore che hanno commesso, e adesso, tenendo conto che la squadra continua a essere convinto del fatto che la squadra è di buon, ottimo livello e che va solo puntellata in 3-4 elementi. Non sono d'accordo, Cesare, però aspetta che ti faccio rispondere, oltre che dal dottor Ordine, anche da Andrea D'Amico, che di mercato insomma un pochino se ne intende. Andrea, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io so che tanti tifosi dell'Inter hanno tremato anche ieri sera sentendo Spalletti dire la rosa è ottima. Comunque non è che può legittimare, però che dire, sì, è un po' ottimista dai Franco, è un tifoso ottimista, secondo me l'Inter ha visto anche quello che sta facendo il Milan, che ha veramente fatto un mercato molto importante, pur avendo comunque speso molto anche lui gli anni precedenti per ottenere risultati, è chiaro che quando arriva un allenatore così importante come Spalletti cerca di avere degli obiettivi importanti per cercare di vincere. Ma da operatore di mercato, tu ti aspettavi qualcosa di diverso dai cinesi dell'Inter? Se devo dire, banalizzando, è normale confrontarlo subito con quello che hanno fatto i cugini, che comunque sono arrivati e sono diventati subito operativi. Quindi sì, mi aspettavo che l'arrivo di Spalletti, Sabatini, questa proprietà molto molto solida di Suning a livello imprenditoriale, servia subito delle danze importanti. Quindi finora è vero che il mercato, poi c'è ancora un mese e mezzo di mercato e tutto, però mi aspettavo sì che ci fossero più acquisti, più movimenti già da subito intorno all'Inter. Io, Franco, ho notato da parte di Spalletti un accenno di nervosismo. Nella scala da 1 a 10 ci fermiamo a 4. Però spesso queste cose, se non vengono sistemate per tempo nell'ambiente Inter, hanno creato in passato poi dei disastri. Ma qui secondo me il vero tema è il seguente. Allora, intanto si parte da una considerazione di fondo che mi pare anche il nostro radioascoltatore Barese prima segnalava, e cioè l'Inter non ha bisogno nell'idea di Sabatini e soprattutto nella convinzione di Spalletti di essere completamente rifondata, rivoltata come un calzino, così come è successo al Milan. Quindi da questo punto di vista la differenza clamorosa, quindi ha bisogno di alcuni innesti, 1-2 se ne è parlato, massimo di 4. E allora qui però il problema è stato, secondo me, sono state gigantesche le aspettative, perché si è detto guardate, siccome Suning è un colosso dell'economia e della finanza mondiale, vedrete che farà cose dell'altro mondo, e invece non è ancora riuscito a farlo, anche perché arrivare a giocatori di primissimo livello non è semplicissimo, perché là dove stanno, fanno la Champions League, magari fanno la finale di Champions League, magari vincono gli scudetti tutti gli anni, e quindi non è semplice. Si sapeva anche qualche mese fa, poi il problema è che dall'altra parte del naviglio qualche giocatore importante sono arrivati. Volevo chiedere ad Andrea D'Amico, veronese doc e che conosce il calcio, e anche Antonio Cassano, che effetto ti fa questa notizia che gira ormai da un'ora. Alle 16 sentiremo dalla viva voce di Cassano. Ma insomma, Cassano lascia dopo una settimana il Verona e quasi certamente lascerà anche il calcio. Ufficiosamente si parla di nostalgia della famiglia. Ma guarda, mi ha sorpreso molto questa notizia che ho letto poco fa, come tutti voi, insomma, e come tutti gli appassionati di calcio. Mi ha sorpreso da un certo punto di vista, perché ho visto Cassano cominciare con voglia. Devo anche dire che invece non mi sorprende, perché ritornare al calcio dopo circa 2 anni diciamo così, a 35 anni non è facile. Quindi magari anche quando c'è la voglia psicologica, mentale, poi di fatto calarsi una realtà economica, ambientale, quotidiana, di sforzi di nuovo, trovare le motivazioni, non è facile, perché devi trovare le motivazioni ogni giorno, che non sono più delle motivazioni economicamente molto importanti, non sono più gli stimoli che puoi avere quando avere il quindi se non sei, diciamo così, come posso dire, se non ti stai rigenerare da dentro quotidianamente è difficilissimo. L'ha fatto Luca Toni, che comunque da grande campione ha fatto, è arrivato anche Borriello, adesso ti chiedo in 30 secondi, oggi Borriello. Hai fatto firmare Borriello col Cagliari ancora. Devo dire che Borriello è veramente un giocatore che trova, ecco, quotidianamente le sue motivazioni per essere sempre professionista al limite in senso positivo, e quindi quando vivi così, anche se anagraficamente hai 5 anni, biologicamente come se ne avessi 10 anni in meno, e lui ha dimostrato a suon di gol l'anno scorso 16-4 in Coppa Italia, comunque vuole rimanere protagonista. Il suo obiettivo è quello, comunque, naturalmente, di continuare con il Cagliari la Serie A, ma soprattutto lui pensa alla nazionale mondiale di Russia. Hai capito, pensa ai mondiali di Russia, carissimo Franco Ordine. Intanto 3-1 del Borussia Dortmund, ha segnato, indovinate chi? Aubameyang. Ciao Andrea D'Amico, grazie. Ciao ragazzi, a presto, ciao Franco. Ciao. C'è chi scrive che a quest'età l'unica motivazione è il dio denaro, ma io non credo, rifiuto anche, adesso non trovo il messaggio, eccolo qui, Cassano che rinuncia di giocare al Verona è un'offesa per tutti i disoccupati come me che guadagnano 800 euro al mese, Giuseppe, abbiamo massimo rispetto per tutti, quindi... Però ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita, anche se ha guadagnato milioni di euro. Io credo non sia questa la leva. No, soprattutto questo. Proprio la possibilità. Ognuno ha le ragioni che vuole, gli stimoli. Non solo, che vuole. Ma il fatto di aver guadagnato consente una maggiore libertà di decisione. Traffico, torniamo subito. C'è la storia di Zaccardo, a proposito di vecchietti che vanno e tornano. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, sempre 3-1 per il Borussia Dortmund con doppietta di Aubameyang, un gol per tempo contro il Milan, siamo intorno al 20° della ripresa. Qualche messaggio qua e là, 349-238-6666. Il segreto di Borriello sono le ferie di Ibiza. Beh, l'anno scorso effettivamente Borriello ha ribaltato tutte le teorie di quelli che dicono che più si va avanti con gli anni più bisogna allenarsi per essere pronti. Ha fatto le vacanze, poi no, ma non ha fatto è arrivato al Cagliari, sì, però e ha fatto una grande stagione, sì, ma non ha fatto vacanze oziose, ha fatto vacanze lavorative, nel senso che vi ricordate i filmati su Instagram tutti i giorni che convocava dietro di sé allo stadio di Ibiza un po' di gente per andare a correre, quindi insomma sì, però l'avevamo presa un po' tutti così, ma perché per il suo passato c'è la voglia di prendere sotto gamba, sì, però siamo un po' abituati ad avere questi pregiudizi. Saluto Cristian Zaccardo, ciao Cristian. Ciao a tutti, buon pomeriggio. A proposito di vecchietti, posso chiamarti vecchietti o ti offendi? Esperto. Esperti, a proposito di esperti, allora ieri ha pubblicato questa cosa su LinkedIn, un po' come facciamo tutti noi quando cerchiamo lavoro. Ho rescisso il contratto che mi legava al Vicenza fino a giugno 2018, e questo già secondo me è segno di grandissimi stimoli. Attualmente sono un calciatore svincolato, sto ancora bene fisicamente, potrei giocare ancora 2 anni a livelli alti, chi mi prenderà secondo me farà un affare, calciatore serio, professionale e forte. Noi abbiamo trovato negli archivi che non sei il primo a usare LinkedIn per fare calciomercato. Ti ha chiamato qualcuno in queste ore? Il mondo, tutto il mondo. Sì, no, non solo i giornalisti, intendo, dico anche di squadre, di... Sì, ovviamente, da tutto il mondo mi hanno chiamato, mi hanno scritto da diversi paesi del mondo, d'Europa e anche fuori dall'Europa, di squadre interessate, manifestazioni di interessi, che in questi giorni approfondirò con i professionisti che ho nel settore della comunicazione e nel calcio. E volevo fare una cosa come da altre parti, negli altri stati, non, è quasi quotidiana, e è venuto fuori tanto clamore mediatico. E da una parte è stata una provocazione, dall'altra comunque ho detto la verità, che dove ho rescisso il contratto che mi legava al Vicenza, sto ancora bene fisicamente e aspetto una chiamata importante da un club dove posso ancora cercare di fare il mio lavoro sul campo. E devo dire lo stimolo, uno che rescinde un contratto che ha, ha degli stimoli, perché nel mondo del calcio i soldi non si regalano a nessuno. Non solo, non solo, intanto saluto con un abbraccio a Cristian Zaccardo, che ho conosciuto. Ciao, ti saluto anch'io. Ho conosciuto ragazzino insieme con i suoi genitori, splendide persone, nel 2006 in Germania per il Mondiale. E dico che non soltanto lui ha rescisso e quindi si è rimesso in discussione, ma mi pare che abbia fatto anche un'eccellente stagione lì al Vicenza. E volevo chiedergli se la sua idea, o comunque diciamo la sua prospettiva, è stare in Italia, restare in Italia, magari anche scendendo di categoria in Serie B, oppure puntare sul chiudere con una bella esperienza all'estero. Ma intanto ti saluto e ti ringrazio per le parole, Franco. Io ho fatto questo più che altro per l'estero. In Italia già mi conoscete, e per l'estero, dove su LinkedIn ci sono direttori sportivi, allenatori, per dire, c'è uno in Slovenia, allenatore del Domžale, che cerca, ha postato l'altro giorno che cercava un difensore. Sì, sì. E ho postato questa cosa. Pare io abbia trovato aperto un certo Alvaro Brachi, difensore trentenne, ex Spagnol B. Questo, esatto, allenatore sloveno. Io sono aperta tutto, però forse se dovessi scegliere, forse piacerebbe concludere l'esperienza all'estero. Anche per i figli, adesso saranno diventati grandicelli, no? Sì, ormai il maschio ha 10 anni e la femmina quasi 8. Quindi secondo me una bella esperienza all'estero farebbe bene a tutti, anche a loro due. Senti, ti fa impressione, notizia di un'oretta fa, non so se l'hai letta, quella di Cassano. 8 giorni al Verona, saluta tutti, alle 16 spiegherà perché e quasi certamente annuncerà anche l'addio al calcio. L'idea è che sia difficile dopo un anno e mezzo tornare a fare il calciatore. Ma non mi sorprende, perché da Antonio siamo ormai abituati a non essere sorpresi sulle cose, sulle decisioni che prende. Ha optato così, va rispettata, è una scelta che oggi comunque desta attenzione, perché aveva manifestato una gran voglia di tornare a giocare e dopo poco sembra che abbia cambiato idea. Oggi ho letto che spiegherà i motivi e lo ascolteremo, e dispiace, perché comunque con i piedi ci sa fare, quindi perdiamo un giocatore che poteva regalare ancora emozioni. Sì, anche se c'è un tifoso del Verona, ci ha scritto prima, che sostiene che la punta più alta dal punto di vista tecnico a Verona sia stata toccata con Dragan Stojković negli anni 90, peccato fosse infortunato spesso. Ho capito, però praticamente non l'hanno mai avuto il vero Stojković, che era onestamente di una categoria pari a quella di Antonio Cassano. Cristian, tu intanto cosa stai facendo? Ti alleni da solo? Sì, attualmente mi sto allenando da solo e sto valutando diverse proposte già per aggregarmi a qualche squadra, per fare il ritiro con qualche squadra, e sto valutando, nel giro di pochi giorni prenderò una decisione. Grazie, grazie Cristian. Un abbraccio a Chris. Grazie a voi, un abbraccio, buon pomeriggio a tutti. Grazie a Cristian Zaccardo, torneremo a seguirlo quando avrà trovato squadra e si sarà accasato. Ci sono in tanti che dicono che non ha voglia di allenarsi. Cassano non aveva voglia più di allenarsi, che ha scoperto che doveva allenarsi e correre come tutti gli altri. Io trovo tutto abbastanza ingeneroso, Franco, anche se capisco che Cassano sia un elemento che divide, lo ha fatto per tutta la sua carriera e quindi lo io fa, ripeto, anche in questo ultimo passo. No, io ripeto adesso, diciamo, per calibrare bene le parole, le opinioni e i giudizi, secondo me dobbiamo partire dalla sua spiegazione. Una volta ottenuta la sua spiegazione, ne sapremo di più noi e capiremo meglio che cosa è accaduto in 8 giorni. Allora, abbiamo il GR, quindi ci fermiamo, ma tutti i convocati poi va avanti fino alle 15.30. Continueremo a seguire anche Milan Borussia Dortmund, con i tedeschi avanti per 3-1 con doppiette di Aubameyang. Siamo a metà del secondo tempo amichevole che si gioca a Guangzhou. Parleremo della Roma, della scelta di vita di Totti, parleremo ancora del mercato dell'Inter, parleremo di questa roba clamorosa che viene dalla Spagna con il Paris Saint-Germain pronto a spendere 222 milioni di euro per prendere Neymar dal Barcellona. Ci teniamo qui Franco Ordine. Sì, sì, chi si muove da qua? Che ci deve dire perché i cinesi del Milan spendono e quelli dell'Inter no? Torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Quest'estate il Falco e il Gabbiano non volano in vacanza. Rimaniamo con voi riproponendovi le puntate che voi ci avete chiesto di farvi riascoltare. La prima donna regista a vincere l'Oscar, Catherine Bigelow. Il Falco e il Gabbiano vi aspetto oggi alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Sì, è finita, diciamo, la mia prima parte della mia vita da calciatore. E adesso inizierà un'altra più importante da dirigente, sperando di fare quello che ho fatto sul campo vero. Sì, io penso che si fosse capito che non l'avrei mai terminata quella partita, quella giornata, perché per me era troppo troppo importante, troppo significativa, troppo emozionante. Racchiudeva 25 anni e più della mia storia con la Roma, perciò il rettangolo di gioco mi ha dato tanto e ho cercato di dare tanto per questa gente che giorno dopo giorno mi ha dato tanto tanto amore. Dalla mia parte ho la possibilità, la fortuna che l'ambiente Roma e la città Roma già la conosco, perciò i dubbi sono più che altro capire quello che voglio fare da grande, cioè il ruolo è ben preciso che io in questo momento non voglio avere, voglio essere tutto e niente, voglio essere un personaggio importante per Roma, per la Roma, e capire veramente quello che mi piacerebbe fare. Insomma, abbiamo capito che Totti le idee chiare non le aveva e non le ha ancora. No, invece devo queste dire sono le prime parole. Sì, però io devo dire che ho apprezzato molto l'umiltà, nel senso che siccome comincia, diciamo, un'altra avventura, è un lavoro che non ha mai fatto, perché coi piedi ci sa fare, questo è fuori discussione, ma adesso deve avviarsi su un altro sentiero molto impervio, nel quale contano la preparazione, contano l'abilità, contano le relazioni personali, e io devo dire che, insomma, mi è molto piaciuto lo slancio e anche, diciamo, la calma con cui ha dato il via a questa nuova, a questa seconda parte della sua esperienza romana. Vedrete che Totti stupirà. Secondo me, no, vedrete che Totti farà piano piano, passo dopo passo, quello che servirà per diventare un buon dirigente. Io mi auguro non troppo piano, perché poi per mesi ci ha detto che voleva capire quale sarebbe stato il suo ruolo per essere importante, non solo una bandiera, eccetera eccetera eccetera. Io personalmente mi aspettavo qualcosina di più dal suo debutto, primo giorno come dirigente. Saluto Luca Valdiserri, che ne sa certamente di più delle questioni romane. Ciao Luca. Eccomi. Hai capito cosa farà Totti? No, ma Zidane al Real Madrid ci ha messo credo 5 anni per capire più o meno quale strada prendere. Il Real Madrid lo ha aspettato, e poi dopo che Zidane ha fatto l'uomo immagine, il consigliere del presidente, il vice di Este con Pardessa, il vice allenatore con Ancelotti, l'allenatore della squadra di Serie B del Madrid Castiglia, poi con molta calma hanno scoperto di avere in casa l'allenatore delle due Champions. Sì. Consecutive che nessuno vinceva fin dai tempi di Arrigo Sacchi. Sì, anche se io ho l'impressione che le aspettative, cioè Totti è più ingombrante anche di quello che è stato Zidane per Madrid, cioè, non so se si può permettere di stare 5 o 6 anni. No. Adesso io non voglio dare ragione a chi scrive a 600.000 euro all'anno per non fare niente, capire, sarebbero bravi tutti, non è così, non ha bisogno di quei soldi lì Totti. No, 5-6 okay, anni no, quindi. Ma 5-6 mesi, 5-6 mesi sì, per sì. esempio. 5-6 mesi sarebbe già accelerare in maniera incredibile il processo di, come dire, di cambiamento del suo ruolo. Io penso che sarà inevitabile che cambi anche strada facendo, idea e soprattutto proprio volontà di ruolo. Perché ho l'impressione, visto che a lui non piace molto, mi pare di aver capito, diciamo, il ruolo da diplomatico, io penso che lui debba in qualche modo specializzarsi in qualcosa. E quindi se si riuscirà a specializzarsi in qualcosa, per esempio anche dal punto di vista tecnico dei regolamenti, eccetera, secondo me non potrà che far bene abbastanza facilmente. Ma alla fine Pallotta se lo tiene perché doveva finire così o perché è davvero convinto che possa essere un valore aggiunto, Totti? Luca? Se lo tiene perché comunque non esiste al mondo giocatore, ex giocatore come ti pare, così legato alla sua società, anche perché purtroppo per la Roma il Real Madrid, come dicevamo, ha avuto Di Stefano, ha avuto Ronaldo, tutti i Ronaldi del mondo, ha avuto Zidane, no? Il Milan ha avuto Baresi, Maldini, Van Basten, Rivera, eccetera eccetera. La Roma ha avuto Totti fondamentalmente, cioè poi dopo pure Falcao, Bruno Conti, però insomma chiaro che qua parliamo di un caso quasi unico al mondo ed è un valore, è un grande valore. Ancora adesso le maglie di Totti sono più vendute, che non gioca più, sono più vendute di quelle che giocano. E poi perché, ma spero che non sia mai così, può essere uno straordinario parafulmine nel momento in cui le cose andassero così così, e insomma poter spendere una parola di Totti al pubblico della Roma è un bel lasso nella mano. Io posso fare il maligno per tutti, lo è già. Cioè, lo è già in un'estate in cui arriva un nuovo direttore sportivo, dice che non è un supermarket e ne vende tanti, e vedremo come va a finire con Manolas e Nainggolan. Arriva un allenatore che è bravissimo, perché Di Francesco è bravissimo, ma non ha lo spessore di Spalletti. Con Nainggolan vi dovete arrendere. Se firma il rinnovo del contratto, lo tirano fuori. Andremo a vedere come va a finire. Però io credo che già oggi, già ieri, con quelle prime parole, Totti sia stato un parafulmine per Pallotta. Ma lo era anche prima, lo è stato anche per le... è stato anche per le presidenze precedenti, insomma, comunque per Rossella soprattutto. È il giocatore che alla fine dello Juventus a Roma 3-2, quello con, diciamo, almeno due gol. Quello più chiacchierato. Se no andiamo avanti fino a venerdì a discutere di Juve Roma. Però va Totti in conferenza stampa a dire tanto non ce lo faranno vincere, insomma. Ma lui, non è che ci va un altro dirigente, in quel momento ci mette la faccia lui per tutti e dice una cosa che, giusto o sbagliata che sia, però passa con una forza micidiale tra il pubblico. Io ti dico, non capisco, soprattutto per chi è fuori Roma, i dubbi, che oggettivamente tu dici, dai, 6 anni di contratto a 600.000 euro netti, sì, sono tanti soldi. Se lo prenderebbero però, tutti come contratto. Però Totti a Roma è qualcosa che negli anni ha reso questa società sì, unica. Però l'importante, Luca, perdonatemi, è che non sia un vitalizio. Cioè, lui deve fare un percorso e se questo è un valore aggiunto. Esatto. Ma lui lo vuole è fare. L'importante ieri, è capire dall'inizio. Sì, sì. Ieri c'è anche un'altra frase molto carina che dice, lui dice... dal settore giovanile al presidente io sono disponibile a 360 gradi, che può essere anche una frase fatta, però davvero a Totti magari piacerebbe di più lavorare sul settore giovanile che fare il vicepresidente, per dire, no? Come idea sua, come piacere suo. Però essendo stato a Roma tutta la vita e nella Roma tutta la vita, si rende anche conto che poi ci sono dei doveri. Totti ha una cosa che, dovessi dire da esterno, mi ha sempre colpito. È una persona di una incredibile bontà e pazienza. Tu pensa agli assist che ha dato Totti nella sua carriera che sono stati sprecati da giocatori non alla sua altezza. Ibrahimovic ne avrebbe strangolati 7-8 a parità di carriera, no? Totti, io non mi ricordo che non abbia mai mandato al diavolo un compagno, che ti posso assicurare che non ci ha avuto sempre Battistuta e Montella vicino. Sì, no, quando ha avuto Battistuta e Montella vinto anni, lo scudetto. Esatto, ha vissuto anche Martin Dahlin, stagioni sì. Come si chiamava il gigantone norvegese? Adesso lo recuperiamo il nome del gigante norvegese, la Roma. L'aspetto ce lo ricordiamo, ha avuto pure quelli vicino, ha avuto Marazzina, con rispetto parlando, per cui comunque noi siamo qui, 5-6 mesi, un anno, due, poi capiremo che cosa farà Francesco Totti da grande. Kerio, John Kerio, lo spilungone norvegese Kerio. Grazie Luca. Grazie Luca Valdisserri. Intanto siamo nei tempo di recupero di Milan Borussia Dortmund, manca un minuto, 3-1 per il Borussia Dortmund. Il Milan si è mangiato una grande occasione, credo con Cutrone, sì. Contropiede solo davanti al portiere, credo che ci fosse anche poi successivamente un bel fallo da rigore in aria, se possiamo dire non male quello che abbiamo visto di Çalhanoğlu. Secondo me il secondo tempo molto meglio. E devo dire, in difesa, quello che sta meglio di tutti, che è più preparato, Zapata, a dimostrazione che lo vogliono tenere, perché secondo me sarà un pilastro comunque del settore difensivo. E Çalhanoğlu ha fatto 2-3 numeri che... Ho visto, insomma, un trequartista. Sì, sì. Non un ma esterno. Anche, secondo me gioca proprio dove giocava Bonaventura. Sì, però non così largo, con qualche passo più dentro il campo. Comunque, insomma, sta per finire la prima vera amichevole del Milan. C'è chi ricorda la parabola di Zanetti all'Inter. Per carità, anche Zanetti sta facendo ancora scuola da un certo punto di vista. Andrea e Matteo. Andrea. Sì, salve. Dai. Sono Andrea, chiamo da Bergamo. Volevo parlare appunto di Cassano. Magari dico vuoi una banalità. Di quello che vuoi. Dai. Esprimo un giudizio anche prima di sentire le sue parole. Secondo me siamo di fronte all'ennesima cassanata. Nel senso che comunque è la dimostrazione che questo ragazzo non si è mai espresso come poteva esprimersi, perché è profondamente immaturo e secondo me anche un pizzico di cultura, di mancanza di punti di riferimento gli sono mancati in tutta la sua carriera. Ma questo è il risultato. Cioè, no, per carità, la carriera di Cassano è lì, lui stesso ormai ne parla con la testa di un adulto e ne parla anche in termini molto critici, ma io non riesco a capire perché la scelta di rendersi conto, perché probabilmente questo è, che oramai non può più fare la vita d'atleta, debba essere giudicata un atto di immaturità. Però poi ascolteremo alle 16 che cosa da dirci a proposito. Appena si libera sentiamo anche più Luigi Pardo. Matteo da Sassari. Matteo. Ciao, sono Matteo D'Assasso e grazie per avermi richiamato. Ma volevo dire, caso Bonucci lo mettiamo da parte, il caso Cassano idem, volevo approfittare un po' di Totti. Totti è un grande campione, ha dato tanto a calcio italiano, ma è arrivato anche per lui il momento di dire basta, di appendere le scarpette al chiodo. Dirigente non lo vedo mica, 5-6 mesi non penso proprio che bastino. Lo vedo più nei bambini, nei ragazzi, tutto qua. Volevo sentire il vostro parere, grazie. Franco. Secondo me sì, credo che gli sia congeniale. Intanto è finita Milan-Borussia Dortmund, 1-3. Credo che gli sia congeniale, credo che sia il settore nel quale lui può esprimersi al meglio. Credo che alla fine sarà quella il suo punto di partenza della nuova carriera da dirigente. Allora, la domanda che fanno in tanti: Franco, perché i cinesi del Milan spendono e sembrano ricchi e quelli dell'Inter, che ricchi sono, non lo fanno? Ma, allora, la domanda, il quesito è, diciamo, sulla bocca di tutti, la risposta è la seguente: il Milan deve ancora affrontare il voluntary fair play, e che si svolgerà a partire dal mese di ottobre, e che naturalmente costringerà il Milan, oltre che a presentare un nuovo piano industriale per i prossimi anni, costringerà soprattutto il Milan a dover prendere atto delle eventuali decisioni da parte dell'UEFA. L'Inter invece, che ha, diciamo tra virgolette, onorato il primo impegno, che è quello del 30 giugno di produrre un certo esito positivo, sì, deve arrivare col bilancio in pareggio, sul bilancio, adesso ha delle difficoltà legate intanto proprio alla spesa, ma soprattutto secondo me alla ricerca di quegli uomini che potevano e devono essere utili. Non dimentichiamo che il Milan è partito con un grande vantaggio. Mentre noi qui inseguivamo le cronache del closing, Mirabelli e Fassone facevano il giro dell'Europa, andavano in giro per l'Europa, andavano a mettere già i primi, come dire, i primi pilastri della costruzione che poi adesso è sotto gli occhi di tutti. Sì, però così nessuno se lo immaginava, nemmeno i più ottimisti. Ma d'altra parte adesso, loro adesso hanno spendono fatto, altri 50-60 allora, milioni per una punta. Loro hanno fatto una cosa semplicissima. Loro fanno una grande scommessa che può essere definita anche un azzardo, e cioè mettono insieme una spesa che è spalmata nei tre anni è di circa 150-170 milioni di euro. Benissimo, i primi 50 quest'anno sono garantiti dal bond che ha staccato Elliott alla borsa di Vienna. Negli anni successivi naturalmente loro puntano su che cosa? L'aumento degli abbonati e degli incassi, l'aumento degli introiti grazie alla qualificazione in Champions League e l'aumento delle quote degli sponsor provenienti dalla Cina. Questo è in soldoni il piano industriale del Milan. Se questa roba sta in piedi, Fassone e Mirabelli hanno vinto, altrimenti Elliott troverà qualcun altro che si compra il Milan. Adesso, esatto. Questo detto per sintetizzarlo, ma tanto ci torniamo su anche nei prossimi giorni. Tancredi Palmeri, ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Ma quanti soldi ha il Paris Saint-Germain se anche solo immagina di spenderne 222 per prendere Neymar dal Barcellona e poi darne 30 netti per 5 anni, che quindi fanno 60 per 5, 6 per 5, sono 300 milioni al giocatore? Ma guarda, però devo dirti, se tu guardi le cifre che ci sono in giro, è vero che il Milan ha fatto il mercato più costoso della storia in Italia in questo momento, comunque sia della stagione 2017, ma comunque sia, grosso modo, i mercati delle grandi squadre si aggirano sui 150 milioni, perché con tre acquisti ormai 50 milioni, anche un pacco di cicorie costa 50 milioni sul mercato. Guarda il Manchester City che prima con Stones, poi con Walker, due volte ha stabilito il record di miglior difensore più costoso della storia. E allora alla fine, siccome se tu ci pensi, alla fine ci sono soltanto tre giocatori che sono veramente decisivi oggigiorno nel mondo del calcio. Tre campioni, tu dici bene, se questo io lo compro, vinco. Messi, Cristiano e Neymar, due ce li hanno la stessa squadra. Quindi in un certo senso chi più spende meno spende alla fine, perché insomma piuttosto che buttarli in tanti rivoli, meglio allora puntare quello, ammesso che ci si riesca. A me pare difficile, perché in fondo il contratto che viene proposto, 30 milioni, è principesco, ma non è che sia così poca tanto roba, maggiore rispetto cioè, a poi Messi credo abbia firmato, anche se non è ancora ufficiale, per 30 milioni. Sì, Messi 40. Beh. Neymar ne prende poco più di 20. Per questo dico, dare un colpo al tavolo e cambiare tutto per un aumento relativo di stipendio, sì, secondo me. Cioè, se uno si deve muovere, deve farlo bene. Quanti gliene devo dare? 50? Sì, no, ma il punto è vedere se il Paris Saint-Germain, ecco, che segnalo, è uno di quelli che è uscito in qualche modo con qualche scappatoia dal famoso financial fair play, riesce a fare il botto, perché qui si tratta obiettivamente di cambiare non soltanto le dimensioni, ma di cambiare anche il corso tecnico del calcio europeo. Quindi bisognerà capire fino a che punto si spingeranno i nuovi ricchi proprietari. Ma il grande dubbio di Neymar è che lui è un re senza terra, perché Cristiano è re di Madrid, Messi è re di Barcellona, Neymar ha preso per dire non ti preoccupare perché un giorno tutto questo sarà tuo. Però intanto il tempo passa e Messi non è che tu ci sai nella parabola discendente, sì, anagraficamente, ma non tecnicamente. Forse anzi il Messi di quest'anno in certi frangenti è stato il più forte di sempre perché il resto della squadra era così in down che Messi ha dovuto alzare il suo livello. Per cui credo che da un punto di vista sportivo, di orgoglio, la cosa che può titillarlo, così come lo titillava l'anno scorso quando andavano a bussare il Manchester United soprattutto, sia questo, sia il diventare andare a prendersi la leadership di una squadra, una qualsiasi, purché sia lontano da Messi, che è un paradosso, ma potrebbe anche essere una chiave di lettura di questa vicenda. Non credo che Neymar viva la competizione, comunque in qualche modo la rivalità in maniera così acuta, anche perché diciamo il palcoscenico che lui ha a disposizione, è vero che trattasi solo e soltanto del Brasile, però è il palcoscenico a cui solitamente i brasiliani tengono in misura maggiore, per cui lì secondo me c'è una questione che attiene alla disperazione dei nuovi azionisti del Paris Saint Germain, i quali hanno visto che con tanto una rivalità, in verità non c'è una rivalità vera e propria con Messi e Neymar. Io più altro mi riferisco a quello che è il questo punto di vista non è una cosa negativa, il sano orgoglio sportivo personale di un campione che ovviamente è almeno un livello sopra gli altri, ed è quello di lasciare un'orma impressa da qualche parte che sia riconducibile soltanto a te stesso. È ovvio che due galli non ci vivono in un pollaio, anche se sono due grandissimi galli, ma sarà sempre il Barcellona di Messi finché c'è Messi. Visto che Neymar, ripeto, sono tre i giocatori, secondo me, ma non credo solo secondo me, che veramente cambiano il corso di un campionato, di una storia calcistica in questo momento al mondo, e Neymar è uno di quei tre, col tempo che passa questa può essere l'unica cosa, perché effettivamente non c'è dal suo punto di vista una rivalità con Messi, anzi loro vanno veramente molto d'accordo. Secondo me non c'è neanche spiegazione a lasciare la Spagna e andare in Francia, ma questa è una mia opinione. Grazie Tancredi. A voi ragazzi, ciao. Grazie Tancredi Palmeri, abbiamo un paio di minuti, facciamo in tempo a fare Gaudenzio. Salve. Vai. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo intervenire prima per quando si parlava della Juve. Di tutta sì, ma puoi farlo anche adesso, dai. Niente, io volevo dire che c'è un'aria in giro a difesa della Juve, come sempre, dimenticandosi, dimenticandosi non solo di Bonucci, ma prima di Bonucci ha fatto questo. Adesso la Juve che fa lezione al mondo intero di come ci si comporta la società, anche se sono grandi giocatori, si mettono i puntini di comportamento come si deve. No, perché la verità è che sta succedendo qualcosa nella società che tutti gli altri giornalisti vogliono coprire. Sì, ma figura, ma noi siamo qui apposta, pagati da Andrea Agnelli, Gaudenzio. Porca miseria, chi ha passato sta telefonata ci ha scoperto. Allora, più di dire che l'anno scorso la Juve è stata un casino, e non è che lo stiamo dicendo noi, lo stanno dicendo tutti. No, ma poi voglio dire, e che evidentemente dopo Cardiff sono venuti al pettine, di cosa possiamo dire di più? Le due questioni sono separate. Dani Alves ha detto chiaramente, ed è stato il primo ad alzare, a sollevare il velo, ha detto apertamente: vado via dalla Juve perché è un casino. E il casino si riferisce esclusivamente a quello che è accaduto durante l'intervallo e alla fine della partita di Cardiff. Per Bonucci la questione è stata diversa, e cioè lì è intervenuta la società per dire: da questo momento in poi noi, tra l'allenatore e il giocatore, scegliamo la società, l'allenatore. Ma se hanno dovuto scegliere è perché c'è stato più un momento di tensione. L'abbiamo detto, Gaudenzio, siamo stati costretti. Più che un momento di tensione, mi sembra un lungo periodo, e abbiamo anche qualche dubbio che anche nello spogliatoio Bonucci non è che fosse poi amatissimo. Ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, oggi incredibilmente con noi, Andrea Roccabella, Franco Ordine, che sicuramente è rinvitato prima o poi. Però bisogna ringraziare anche Caracozza, che è stato con noi anche nella prima parte. Noi poi stiamo qui alle 16 ad ascoltare Antonio Cassano e vi racconteremo tutto. Ciao ragazzi, a domani. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.